Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 6 ottobre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti sul nostro programma che fa da ponte tra il carcere e la città, che è sempre Liberi Dentro Eduradio e TV. Ora in onda su Radio Città Fujiko e poi come al solito Lepida TV canale 118 e Teletricolore canale 636. E qui con voi ci sono sempre io, che sono Caterina Bombarda, e Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. A farvi compagnia per mezz'oretta con queste notizie tra il carcere e la città. E oggi vorrei partire con una notizia molto bella. Roma, reinserimento dei detenuti, casa e lavoro dopo il carcere, accordo Campidoglio DAP. Un articolo che leggo da Viviana Lanza su Il Dubbio, ed è molto bella questa notizia perché riguarda il reinserimento fatidico dei detenuti grazie al sostegno delle istituzioni. Sembra un sogno questa cosa, perché ed effettivamente si sta avverando grazie al protocollo d'intesa firmato tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia, provveditorato Lazio, Abruzzo, Molise del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. Caterina, spiegaci un attimo che cosa prevede il protocollo. Allora, sulla base di questo neaccordo c'è la valutazione preventiva di quelli che sono i servizi erogati da Roma Capitale in ambito socioassistenziale, culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, attività anche anagrafiche di stato civile da rendere disponibili per i detenuti. Perché, ebbene sì, tutte queste cose insieme per i detenuti spesso non sono disponibili. L'obiettivo è quello di favorire il reinserimento sociale delle persone stesse, promuovendo attività di accoglienza, informazione, orientamento, accompagnamento al benessere in termini di qualità della vita e delle relazioni, accesso anche ai servizi e anche aumento delle opportunità nei loro confronti. Lo scopo ultimo pensato dalle istituzioni è quello di lavorare a percorsi costruiti sull'esigenza personale di ciascuna persona detenuta, quindi dal lavoro all'istruzione, alle attività sociali e culturali, tutti strumenti pensati per la riacquisizione dell'autostima e anche con l'obiettivo di porre solide basi per facilitare un percorso di partecipazione attiva alla vita sociale fuori dagli istituti penitenziari. Per questo motivo anche la garante dei detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni, si è detta soddisfatta, ha detto l'accordo ratifica il lavoro avviato in questi anni su cui il Comune di Roma ha lavorato molto e per cui è stato molto attivo, tanto da istituire nel 2003, quindi quasi 20 anni fa, la figura del garante, un primato rispetto alle altre città. Questo è vero, ma cos'altro prevede questa intesa? L'intesa prevede una serie di servizi innovativi che vi narrerò, per esempio l'ufficio anagrafe per il rilascio documenti ai detenuti. È una cosa straordinaria, pensate che fino ad ora, anche solo nel carcere della Dozza di Bologna, se ne occupano i volontari spesso di questi servizi per i detenuti, così come il miglioramento dei servizi già esistenti. Infatti sono aumentati i posti in appartamenti e in alloggi da destinare ai detenuti in uscita. Anche queste non è una cosa banale, perché spesso se ne occupano le associazioni di volontariato. Oppure anche per le mamme con minori a carico è previsto l'ingresso nella casa di Leda, una delle solo tre purtroppo, strutture dedicate per far crescere alle mamme detenute i bambini in un luogo che non sia il carcere. Ma c'è anche altro, sono messe a disposizione borse di lavoro per garantire l'ingresso nel mondo del lavoro ai detenuti, e poi anche un sistema per la consultazione dei libri grazie alla collaborazione con le biblioteche di Roma. Non per ultimo è garantito un servizio trasporti e una ludoteca all'interno del carcere di Rebibbia per rafforzare i rapporti familiari condizionati dalla detenzione e magari far incontrare le famiglie e la persona detenuta in questi spazi che sono più idonei ai colloqui personali. Per coordinare tutti questi interventi, che sono bellissimi, sono un'innovazione, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi, c'è una cabina di regia che con cadenza bimestrale avrà anche il supporto della garante dei diritti delle persone prive della libertà personale di Roma Capitale, la Gabriella Stramaccioni. E qui io concludo sempre, lancio una piccola pausa musicale, rimaniamo con i Queen in tema radio, rimaniamo con allora Radio Gaga, invece ci rivediamo tra poco. Rieccoci, bentornati. Siamo adesso con Antonella per parlare di un film dedicato all'ambiente. Raccontaci. Caterina, è uno dei tanti film in realtà dedicati all'ambiente che in questo periodo per fortuna sono in produzione. E quello di cui vorrei accennarvi oggi si chiama Un fois que tu sais, che significa Una volta che lo sai, è di Emmanuel Capellen ed è proprio un film tipicamente sull'ambiente, nella tradizione che sta nascendo negli ultimi anni. E parliamo spesso di ambiente noi qua a Eduradio TV perché dobbiamo essere tutti consapevoli dei cambiamenti in atto, quelli climatici in particolare, e delle loro ricadute sociali ed economiche e soprattutto sull'ecosistema. Infatti non a caso questi film si stanno producendo sempre più numerosi e dimostrano quanto il nostro pianeta sia in grave pericolo. Oggi di quale film ci parli quindi? Sì, tra i tanti, come ti dicevo, vi parlerei di Un fois que tu sais, di Emmanuel Capellen, che è direttore della fotografia e documentarista di fama internazionale, che in realtà ha incontrato i più importanti climatologi del mondo. E le sue domande sono: come si può vivere con questa situazione critica? Quali sono le risposte nella vita quotidiana? E quindi ha interpellato Hervé Letrout, che è uno dei più grandi climatologi francesi, che dice che sulla questione del clima e dell'energia è chiaro che abbiamo superato dei limiti e che accadranno cose ineluttabili. Quindi dobbiamo fare una distinzione tra le cose che sono ancora evitabili e quelle che non lo sono più, purtroppo. E un film oggi ha ancora senso perché ci dà un po' la dimensione umana e ci restituisce la nostra capacità di resilienza che determinerà il resto della nostra storia personale, umana e anche climatica. Dovremmo quindi, in realtà, per dirla in parole insomma semplici, trovare soluzioni alternative e modelli di vita sostenibili se vogliamo invertire la tendenza e andare verso una crescita ragionata per evitare un collasso della nostra società. Però Caterina, noi ne avevamo già parlato, non solo noi di Eduradio TV e va bene, ma ne parlavano 40 anni fa con il rapporto Meadows. Parlavamo già dei limiti alla crescita per evitare il peggio, ma ne l'abbiamo detto, l'abbiamo ascoltato e poi non ce ne siamo più occupati. Accennavi prima al fatto che questo non è uno degli unici film sull'ambiente. Facci una carrellata di cosa c'è al cinema o in TV a pagamento in questo momento. Allora, guarda, io ho visto il trailer che è bellissimo ed è Il mio amico in fondo al mare del 2020. È il documentario di Pippa Ehrlich e James Reed, in cui un regista stringe un'insolita amicizia con un polpo, che è una creatura intelligentissima e dotata di una spiccata sensibilità. Sono delle immagini meravigliose. Lui che va nel fondale, in questa giungla di alghe in Sudafrica, che si avvicina al polpo e hanno una sorta di comunicazione veramente toccante, bellissimo. Poi c'è il famosissimo I'm Greta, cioè parla di Greta Thunberg, ovviamente, che è stato realizzato anche questo nel 2020 ed è un documentario di Nathan Grossman che narra le vicende della ragazza che di fatto è diventata il volto del movimento ambientalista e che ha inventato i Fridays for Future, per esempio. E poi ce n'è un altro che è La marcia dei pinguini del 2005, il documentario premio Oscar di Luc Jacquet, che segue da vicino l'odissea affrontata da una colonia e poi da una coppia in realtà di pinguini imperiali che devono affrontare enormi sforzi e difficoltà per accoppiarsi e deporre le uova. È un po', diciamo, un'opera che testimonia la tenacia della vita sul nostro pianeta anche in condizioni avverse. Un salto veloce per ricordare una scomoda verità che fu presentato nel 2006, il documentario Cult prodotto da Al Gore e diretto da Davis Guggenheim, che ha aperto gli occhi a moltissime persone sul problema del riscaldamento globale e sul ruolo che gli uomini hanno nell'accelerazione di questa tendenza. Ebbe anche un paio di Oscar, un Academy Awards nel 2007 come miglior documentario e anche per la canzone originale I Need to Wake Up di Melissa Etheridge, che ascolteremo tra poco tra l'altro. E poi c'è il continuo in realtà che è The 11th Hour, cioè l'undicesima ora, che fu portato anche lì al Festival di Cannes, narrato da Leonardo DiCaprio, scritto anche da lui in realtà, che fa il punto sulla situazione del pianeta con il supporto di politici, scienziati e ambientalisti, trattando temi come il riscaldamento globale, la deforestazione e l'estinzione di massa. E come vi dicevo, vi ho citato prima Melissa Etheridge, I Need to Wake Up, che ricevette l'Oscar come migliore canzone originale. Ascoltiamola. Dismissing all the distant rumblings, take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out, something's got to break up, I've been asleep, and I need to wake up now. And as a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient Ben ritrovati a tutte e tutti, sempre su Liberi Dentro e Du Radio TV. Siamo sempre in collegamento anche oggi con il garante comunale per le persone prive della libertà personale, Antonio Iagnello, e a commento con lei, garante, di quella che è la relazione annuale sull'attività svolta. In particolare, dopo i dati dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato ieri, anche i numeri del sovraffollamento, c'è anche un altro aspetto che riguarda le carceri. Penso per esempio alla situazione strutturale dello stabile della Dozza, che soltanto l'anno scorso, nel 2020, aveva subito diversi danni proprio durante la situazione del Covid. Com'è la situazione adesso? Allora, con riferimento a quelli che sono stati i danni causati dai disordini del marzo 2020, gli atti collegati ai disordini avevano anche provocato dalla devastazione di quelli che erano gli ambienti dove c'era la strumentazione dell'azienda USL per l'effettuazione delle visite specialistiche. Allo stato, anche se pare che siano prossimi alla partenza, allo stato quegli spazi non sono ancora stati ripristinati, e tutto questo, anche collegato all'emergenza sanitaria, ha sicuramente comportato, diciamo così, una contrazione di quella che era l'offerta di visite specialistiche. Comunque sia, in ogni caso si è sopperito mandando le persone detenute che avevano appunto bisogno di prestazioni specialistiche all'esterno dell'istituto. Una, diciamo così, inedita criticità che si è configurata proprio in questo periodo è collegata al fatto che mai, andando a memoria, si era riscontrata una presenza così limitata di figure mediche. Figure mediche che sicuramente alla luce anche dell'emergenza sanitaria abbiamo purtroppo imparato a conoscere che, come dire, siano carenti con riferimento a tutti quelli che possono essere i settori dello strategico comparto sanitario, ma ultimamente, vuoi per scelte intraprese legittimamente che da parte degli operatori che erano nel carcere di Bologna, che hanno imboccato altri percorsi professionali, voi perché in questo momento appunto ci sono state grossissime difficoltà, come dicevo, con riferimento al turnover, da quando la sanità penitenziaria è passata al sistema sanitario nazionale, quindi da quando si è completato il processo di riforma del 2008, a memoria, come vi dicevo, non ricordo un numero così basso di figure mediche. Sappiamo naturalmente che l'azienda US già si sta muovendo per trovare gli interventi e i rimedi più puntuali per ovviare a questa situazione, però allo stato la fotografia attuale è che c'è una carenza appunto di medici. Facevo riferimento, quindi abbiamo parlato di fase successiva ai disordini che ha comportato delle criticità strutturali, però diciamo così permane una condizione di inadeguatezza strutturale di quella che è la casa circondariale di Bologna, che sin dalle origini molto probabilmente è stata costruita in maniera piuttosto approssimativa. Fa un lavoro straordinario la squadra di persone detenute che opera la manutenzione ordinaria dei fabbricati e sostanzialmente, alla luce appunto del fatto che probabilmente questa struttura è stata costruita piuttosto male, sappiamo che quotidianamente rincorre quelli che sono interventi di manutenzione in ragione appunto di questa criticità che è stata riscontrata sin dagli inizi. Ogni 6 mesi l'azienda US di Bologna effettua, sulla base di quello che è previsto dall'ordinamento penitenziario, sopralluoghi al fine di verificare lo stato delle condizioni igieniche e sanitarie della struttura, tendenzialmente i giudizi con riferimento a quella che è la situazione legata alle condizioni igienico-sanitarie sono tendenzialmente di sufficienza, va da sé che vengono sempre riscontrati spazi rispetto ai quali sarebbero necessari interventi piuttosto puntuali. Pensiamo per esempio al cronico problema dell'infestazione delle blatte, nonostante la casa circondariale effettui, la locale direzione preveda tutta una serie di interventi di disinfestazione, ma evidentemente non sono sufficienti, anche in ragione della vetustà dell'edificio, e pensiamo per esempio alla situazione piuttosto degradata degli ambienti che ospitano le docce comuni. Quindi abbiamo una situazione dove è insufficiente la ventilazione e sono necessari continui interventi di ristrutturazione proprio per sanificare, levare l'umidità e anche, diciamo così, le muffe che oggettivamente ci sono. E certo, chiarissimo. Questo è. E infatti lei accennava al lavoro che anche i detenuti svolgono per il mantenimento della struttura. E in riferimento a questo, al tema del lavoro, quanti sono i detenuti che lavorano in questo momento? Sono riiniziate anche le attività di lavoro all'interno del carcere? Diciamo così che le attività lavorative, laddove anche durante l'emergenza sanitaria, laddove ci fossero le condizioni sanitarie per rimanere aperte, quindi laddove in un modo o nell'altro nell'ambito lavorativo non fosse iniziato a circolare il virus, c'è stato appunto questo sforzo molto importante da parte della direzione di lasciare tutto aperto, laddove appunto ci fossero le condizioni sanitarie. Questo con riferimento alle attività lavorative, naturalmente anche per quanto possibile, pur dovendo limitare i numeri, con riferimento a quelle che sono state le attività trattamentali. La domanda di lavoro è una delle principali richieste delle persone detenute e collegata però, come dicevamo nella puntata precedente, alla questione del cronico sovraffollamento, ci troviamo in una situazione nella quale tendenzialmente lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e in parte limitata alle dipendenze anche di soggetti esterni convenzionati con l'amministrazione penitenziaria, pensiamo per esempio alla straordinaria esperienza dell'officina meccanica, lavorano circa 170 persone. questo comprendiamo anche le donne detenute, le proporzioni tendenzialmente sono quelli fra uomini alla luce di quella che è la loro presenza e donne alla luce di quella che è la loro presenza, riescono a lavorare con continuità. Va da sé che è oggettivamente, alla luce delle attuali 750 persone, una situazione che non necessariamente, come abbiamo più volte detto, dipende dalla locale gestione dell'istituto penitenziario, perché quelli sono i fondi che ha a disposizione, no, per fare lavorare le persone detenute, però sicuramente sarebbe opportuno incrementare le occasioni di lavoro, perché la popolazione detenuta è molto povera, perché può avere un significato particolare anche riuscire a mandare ogni mese, contribuire, no, al sostentamento della famiglia, per quanto possa essere, diciamo così, talvolta anche puramente simbolico, perché le paghe oggettivamente sono quelle che sono, però potrebbe essere, diciamo così, uno spazio nel quale la persona detenuta riesce anche in termini concreti a mantenersi vicina alle famiglie o comunque alle proprie persone care. E principale richiesta delle persone detenute è anche, dovrebbe essere, come sappiamo, uno dei principali cardini del trattamento penitenziario, quello del lavoro. Però per il momento, quantomeno a livello locale, ma tendenzialmente anche riproponibile questo ragionamento su scala nazionale, credo, non c'è un'adeguata offerta di lavoro per le persone detenute. La ringrazio di nuovo, anticipo il tema di domani che sarà la rieducazione e l'educazione in carcere, anche lì affronteremo quali sono i numeri delle presenze professionali. Ci rivediamo domani, ma ancora una pausa musicale e ci rivediamo dopo per i saluti finali di fine puntata. Arrivederci Garante, a presto. Arrivederci, grazie. You're sweeter than anything. I need you. Want to get closer to you. E abbiamo sempre avuto ospite Antonio Iagnello, come vi dicevo, tutta la settimana con noi su Liberi Dentro Eduradio. Ora passiamo alla rubrica, tra poco su Lepida TV avremo l'equipe sanitaria con in replica, naturalmente, una puntata che avete già visto, ma molto interessante sulle malattie sessualmente trasmesse. E una puntata che potete ascoltare anche alle ore 17 su Teletricolore e, come al solito, ogni mattina alle 6.30 su Radio Città Fujiko. Vi ricordiamo sempre di scriverci, redazioneliberidentro@gmail.com, per esprimere pareri, opinioni e anche possibilità che noi facciamo qualcosa di nuovo per voi, di cui non sappiamo magari i vostri gusti e i vostri interessi. E sempre un saluto da me, Caterina Bombarda, Antonella Cortese ed Enea Flacco. A domani, ciao. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.